Terzo anello. Ad alta voce. Elsa Agalbato legge Emma di Jane Austen. Traduzione di Bruno Maffi. Emma non aveva mai visto Jane così in salute, così bella, così affascinante. Vera consapevolezza, animazione, calore. Vera tutto ciò che il suo aspetto o i suoi modi potessero mai avere richiesto. Venne avanti tendendo la mano e disse con voce bassa ma vibrante di sentimento: «È davvero molto gentile. Miss Woodhouse, mi è impossibile dire. Spero che mi crederà. Oh, mi scusi se non ho assolutamente parole». Emma ne fu lieta e avrebbe certo mostrato di avere parole se il suono della voce di Mrs. Elton dal salotto non l'avesse trattenuta consigliandole di condensare tutti i suoi sentimenti di amicizia e di compiacimento in una calorosa, anzi molto calorosa, stretta di mano. Miss Bates e Mrs. Elton erano insieme. Miss Bates era fuori, il che spiegava la precedente calma. Emma avrebbe potuto desiderare che Mrs. Elton si trovasse in tutt'altro luogo, ma era in uno stato d'animo di tolleranza verso chi che sia, e quando la signora Elton la ricevette con insolita buona grazia, sperò che l'incontro non facesse loro alcun male. Presto le parve di aver intuito i pensieri di Mrs. Elton e di capire perché fosse, come lei, d'ottimo umore. Il fatto d'essere nella confidenza di Miss Fairfax e di immaginarsi di conoscere quanto per altri rimaneva un segreto. Emma ne vide immediatamente i sintomi nell'espressione del suo volto e mentre salutava Mrs. Bates e pareva ascoltare le risposte della buona vecchia signora, la vide, con una specie di ansiosa esibizione di mistero, piegare una lettera che evidentemente stava leggendo a Miss Fairfax e infilarla di nuovo nella borsa viola e oro accanto a lei, dicendo, con significativi cenni della testa, «Possiamo finirla un'altra volta, sa? A lei e a me le occasioni non mancheranno». E poi tutto l'essenziale l'ha sentito. Desideravo soltanto provarle che Mrs. S. accetta le sue giustificazioni e non è offesa. Vede in che modo delizioso scrive? Oh, è una dolce creatura. Se fosse andata, l'avrebbe presa in grande simpatia. Ma non una parola di più. Siamo discrete e comportiamoci come si deve. Ricorda quei versi? Quando in ballo è una signora, tutto il resto cede il campo. Ora io dico, mia cara, nel caso nostro, al posto di signora, leggere... Chi vuole intendere, intenda. Sono no in forma stamattina. Ma voglio che si tranquillizzi circa Mrs. S. La mia spiegazione, come vede, l'ha interamente soddisfatta. E bastò che Emma volgesse il capo per dare uno sguardo al lavoro a maglia di Mrs. Bates perché aggiungesse sottovoce: «Non ho fatto nomi, come avrà osservato. No, prudente come un ministro di Stato. Me la sono cavata a meraviglia». Emma non poteva dubitarne. Era uno sfoggio che non ammetteva equivoci e che era ripetuto ad ogni possibile occasione. Per un po' parlarono tutti in buona armonia del tempo e della signora Weston. Poi Emma si sentì dire bruscamente: «Non le sembra, Miss Woodhouse, che la nostra piccola sbarazzina si sia splendidamente rimessa? Non le pare che la sua guarigione renda il massimo onore a Perry?» E qui diede una sbirciata significativa a Jane. «Parola d'onore! Perry l'ha guarita in un tempo straordinariamente breve. Oh, se l'avesse vista come è toccato a me nel momento peggiore!» E mentre Mrs. Bates diceva qualcosa ad Emma, riprese a bisbigliare: «Non diciamo una parola dell'aiuto di cui Perry si è valso, non una parola di un certo giovane medico di Windsor, no, tutto il merito deve andare a Perry!» «Non ho avuto il piacere di vederla, Miss Woodhouse», riattaccò subito dopo, «dalla scampagnata a Box Hill. Piacevolissima scampagnata, in vero. Penso tuttavia che qualcosa mancasse. Le cose non sembravano, voglio dire, sembrava che sullo spirito di qualcuno pesasse una piccola nube, Così almeno mi è parso. Ma è possibile che mi sia sbagliata. Comunque, penso che sia riuscita in modo da tentarci a ripeterla. Che cosa ne direbbe di riunire la stessa compagnia ed esplorare nuovamente Box Hill finché dura il bel tempo? Ah, deve essere la stessa comitiva, sa. Proprio la stessa, senza alcuna eccezione. Poco dopo, Miss Bates entrò ed Emma non poté non divertirsi della perplessità della sua prima risposta a lei stessa, derivante, immaginava, dal dubbio su ciò che si fosse già detto e dall'impazienza di dir tutto. Grazie, cara Miss Woodhouse. Lei è tutta cortesia. È impossibile dire. Oh sì, davvero, capisco perfettamente. Le prospettive della nostra amata Jane, cioè non voglio. Ma si è magnificamente rimessa. Come sta il signor Woodhouse? Ah, oh, molto lieta. È più di quanto possa fare una piccola cerchia felice come quella in cui ci si trova. Oh sì, proprio davvero. Un affascinante giovanotto, cioè così alla buona. Voglio dire, il caro Mr. Perry, così pieno di attenzioni per Jane. E dalla sua gioia, grande e piena di gratitudine più del consueto per la presenza di Mrs. Elton, Emma intuì che da parte della canonica c'era stato un po' di risentimento verso Jane, ora graziosamente superato. Invece, dopo alcuni bisbigli che eliminarono ogni dubbio, la signora Elton disse parlando forte: Sì, sono qui, mia buona amica, e ci sono da tanto tempo che in qualunque altro posto riterrei necessario scusarmi. Ma la verità è che sto aspettando il mio signore padrone. Ha promesso di venire a prendere me e a salutare loro. Come? Ah, oh, avremo il piacere di una visita del reverendo Elton. Questo sì che sarà un favore. Infatti, so che i signori non amano fare visita di mattina e il reverendo Elton ha il tempo così contato. Parola d'onore, Miss Bates, proprio così. È impegnato dalla mattina alla sera. La gente non finisce mai con questo o con quel pretesto di fargli visita. Magistrati, sovrintendenti, hanno sempre bisogno del suo giudizio. Sembra che senza di lui non possano fare nulla. Parola d'onore, reverendo, dico spesso, meglio lei che me. Non so dove andrebbero a finire le mie matite e il mio strumento, se avessi anche solo la metà di visitatori. Per quanto vada già abbastanza male, giacché li trascuro entrambi in modo imperdonabile. Credo di non aver suonato una battuta queste 2 settimane. Comunque le assicuro che verrà. Sì, proprio per far visita a voi tutte. E alzando la mano per farne schermo alle sue parole dal lato di Emma, una visita di congratulazioni, capisce? Oh sì, assolutamente indispensabile. Miss Bates si guardò attorno, beata. Ha promesso di venire appena disimpegnatosi da Knightley. Ma lui e Knightley si sono tappati in casa immersi in profonda discussione. Il reverendo Elton è la mano destra di Knightley. Per nulla al mondo Emma avrebbe sorriso e si limitò a dire: È andato a Donwell, il reverendo Elton? Avrà caldo? Oh no! Si tratta di un incontro alla corona, una vera e propria riunione. Ci saranno anche Weston e Cole, ma viene naturale di parlare soltanto di quelli che dirigono. Immagino che il reverendo Elton e Knightley abbiano sempre partita vinta. Non ha confuso le date? Disse Emma. Sono quasi certa che la riunione alla corona non avverrà prima di domani. Ma Mr. Knightley è stato ieri ad Hartfield e ha accennato a sabato. Oh no! La riunione è certamente oggi. Fu la brusca risposta che esprimeva impossibilità di qualunque errore da parte di Mrs. Elton. Credo che una parrocchia più impegnativa non ci sia mai stata. Cose simili non si sono mai sentite a Maple Grove. La vostra parrocchia laggiù era piccola, disse Jane. Parola d'onore, cara, non saprei perché non ho mai sentito parlare di questo argomento. Ma lo dimostra la piccolezza della scuola, di cui l'ho sentita accennare che era sotto il patronato di sua sorella e di Mrs. Bridge, l'unica scuola e non più di 25 scolari. Oh, testolina saggia, verissimo! Che cervello pensante lei ha! E che perfetto carattere faremmo, lei ed io, se ci si potesse fondere in una! Il mio brio e la sua solidità darebbero la perfezione. Non voglio con ciò insinuare, tuttavia, che qualcuno non la consideri già perfetta. Ma non una parola, la prego! Jane desiderava rivolgere la parola non alla signora Elton, ma a Miss Woodhouse, come quest'ultima vide chiaramente. Il desiderio di trattarla con particolare riguardo nei limiti consentiti dalla buona educazione era più che evidente, sebbene non potesse andare molto oltre un'occhiata. Il reverendo Elton fece la sua apparizione e la signora lo accolse con un pizzico della sua vivacità scintillante. Un bel modo, parola d'onore! Mandarmi qui a disturbare le mie amiche tanto tempo prima che lei si degni di venire. Ma lei sapeva con che creatura aligia al dovere avesse a che fare. Sapeva che non mi sarei mossa prima che il mio signore padrone arrivasse. E qui sono rimasta un'ora, dando a queste giovinette un esempio di vera obbedienza coniugale. Giacché chi può dire che non ce ne sia presto bisogno? Il reverendo Elton era tanto stanco e accaldato che tutto quel brio parve inutile. Non poté non rendere omaggio alle altre signore, ma subito dopo passò a commiserarsi per il caldo che pativa e per la passeggiata che aveva fatto invano. «Arrivato ad Onwell», disse, «non c'è stato modo di trovare Knightley. Stranissimo. Assolutamente inspiegabile dopo il biglietto che gli ho mandato stamattina e la sua risposta che fino all'una sarebbe certamente stato in casa. Donwell? Esclamò sua moglie. Mio caro reverendo, non è a Donwell che lei è stato. Voleva dire la corona, la riunione alla corona. No, no, quella è domani e proprio perciò desideravo vederlo oggi. Una mattinata da cuocere al forno. Per giunta ho preso la via dei campi, aggiunse parlando nel tono di chi ha subito un grave torto, il che ha peggiorato la situazione. E non trovarlo a casa. Davvero non sono affatto contento. E non un rigo di scuse, non un messaggio. La governante ha dichiarato di non sapere nulla del mio arrivo. Straordinario davvero. E nessuno sapeva dove fosse andato. Forse ad Hartsfield, forse ad Abbey Mill, forse nei boschi. Miss Woodhouse, non sembra più lui il nostro bravo amico Knightley. Può spiegarlo? Emma si divertì a protestare che era straordinario davvero e che non aveva parole per giustificarlo. Non posso immaginare, disse Mrs. Elton, sentendo da buona moglie tutto il bruciore dell'offesa. Non posso immaginare come abbia fatto una cosa simile proprio a lei, l'ultima persona che ci si aspetterebbe di veder dimenticata. Doveva lasciarle un rigo, caro Elton. È certo che lo doveva. Nemmeno Knightley poteva essere così eccentrico. I domestici se lo saranno dimenticato. Stia pur certo che è andata così. Niente di strano coi domestici di Donwell che, l'ho spesso osservato, sono tutti molto rozzi e trasandati. Garantito che per nulla al mondo vorrei alla nostra dispensa una creatura come quel suo Harry. Quanto a Mrs. Hodges, Wright la giudica molto da poco. Ha promesso a Wright una ricetta, ma dica un po' se gliel'ha mandata. Ho incontrato William Larkins, continuò il reverendo Elton, vicino a casa. Mi ha detto che non avrei trovato il suo padrone, ma io non gli ho creduto. Sembrava un po' di malumore, William. Non sapeva che cosa diavolo fosse successo al suo padrone negli ultimi tempi, ha detto, ma non c'era verso di cavargli una parola di bocca. A me gli affari di William non interessano punto, ma è davvero della massima importanza che io veda oggi Knightley, ed è quindi un grave impiccio che mi sia preso tutto questo caldo per nulla. Emma pensò che la miglior cosa fosse di tornarsene subito a casa, Con ogni probabilità vi era attesa proprio in quel momento. E forse si poteva impedire a Mr. Knightley di cadere ancora più in basso nell'offendere il reverendo Elton, se non William Larkins. Nel congedarsi, si rallegrò di trovare Miss Fairfax decisa ad accompagnarla e a scendere le scale con lei. Ciò le offriva l'occasione che subito afferrò di dire: «È forse meglio che non ne abbia avuto la possibilità. Se non fosse stata circondata da altri amici, forse sarei stata tentata di proporre un argomento o di chiedere qualcosa, di parlare più apertamente di quel che sarebbe parso corretto. Ho la sensazione che sarei stata impertinente». «Oh!» esclamò Jane arrossendo con un'esitazione che ad Emma parve infinitamente più adatta al suo stile che l'eleganza della sua solita compostezza. «Non ci sarebbe stato nessun pericolo. Il pericolo era, semmai, che la stancassi. Nulla poteva riuscirmi più gradito che l'espressione di un interesse. Davvero, Miss Woodhouse», soggiunse parlando con più calma, «cosciente come sono di essermi comportata male, molto male, trovo molto consolante sapere che quelli fra i miei amici la cui buona opinione val più la pena d'essere mantenuta non sono disgustati al punto da... Non ho tempo di dire la metà di quello che vorrei. Mi struggo dal desiderio di scusarmi, di giustificare il mio contegno, di addurre qualcosa a mia discolpa. Sento che è il mio preciso dovere. Ma, disgraziatamente, insomma, se la sua compassione non mi è amica... Oh, lei è davvero troppo scrupolosa!» esclamò Emma con calore, stringendole la mano. «Nessuna scusa è dovuta, e tutti coloro ai quali si potrebbe supporre che ne deva sono così soddisfatti, anzi, così felici. Lei è molto gentile, ma io so qual è stato il mio contegno con lei. Così freddo, così artefatto. Ho sempre dovuto recitare una parte. È stata una vita di sotterfugio. So che devo averla disgustata». Tutti gli amici della signora Weston ebbero la gioia di saperla in buona salute. E se qualcosa poteva aumentare la soddisfazione di Emma, fu la notizia che era madre di una bambina. Era stata ferma nel desiderare una Miss Weston. Non voleva ammettere che fosse col proposito sottinteso di combinare a tempo debito un matrimonio fra lei e questo o quello dei figli di Isabella, ma era convinta che una femmina sarebbe meglio convenuta sia al padre che alla madre. Sarebbe stato un gran conforto per Mr. Weston, invecchiando, e fra 10 anni perfino il signor Weston poteva invecchiare, aver ravvivato il focolare dai giochi e dalle monellerie, dai capricci e dalle fantasie di una bimba che mai sarebbe stata bandita da casa. Quanto alla signora Weston, non v'era dubbio che una femmina avrebbe voluto dire molte cose e sarebbe stato davvero un peccato che una persona così abile nell'insegnare non esercitasse ancora questa dote. «Ha avuto il privilegio di fare pratica su di me», disse Emma. «E ora vedremo educata in modo perfetto la sua piccola Adelaide». «Cioè, gliele darà vinte anche più che a lei, pur credendo di non dargliele affatto. Sarà qui la sola differenza», rispose Mr. Knightley. «Oh, povera bimba, a questa stregua che ne sarà di lei?» esclamò Emma. «Nulla di male. Il destino di mille e mille altre. Sarà una peste da piccola e si correggerà crescendo. Vado perdendo la mia ruggine contro i bambini viziati, carissima Emma. Per me, che a lei devo tutta la felicità, non sarebbe una spaventosa ingratitudine essere severo con essi?» Emma rise e ribatté. «Ma io ho avuto a controbilanciare l'indulgenza altrui il privilegio del suo costante intervento. Non so se sarei arrivata col mio solo giudizio a correggermi». «Davvero? Io non ne dubito. La natura le ha dato intelligenza. Miss Taylor le ha dato principi. Il risultato doveva per forza essere buono. E il mio intervento aveva le stesse probabilità di fare sia male che bene. Per lei era naturalissimo dire: che diritto ha lui di darmi lezione? e temo altrettanto naturale sentire che gliela davo in modo sgradevole. No, non credo di averle fatto nessun bene. Il bene è stato tutto mio, perché l'ho elevata ad oggetto del più tenero amore. Non avrei potuto pensare a lei, difetti o no, senza volerle tanto bene. E a furia di immaginare tanti errori, ho finito per innamorarmi di lei, che aveva 13 anni al massimo. «Sono certa che mi ha giovato», esclamò Emma. «Sono stata molto spesso influenzata in bene da lei, più spesso di quanto al momento potessi riconoscere. Sono sicurissima che mi ha fatto del bene. E se è destino che la povera piccola Anna Weston sia viziata, sarebbe da parte sua un atto di grande umanità fare per lei quanto ha fatto per me, salvo l'innamorarsene quando avrà 13 anni. Quante volte da bambina mi ha detto con una delle sue occhiate maliziose: «Mr. Knightley, farò questo o quello, papà dice che posso farlo». Oppure: «Ho il permesso di Miss Taylor», di qualcosa che lei sapeva che non avrei approvato. In casi simili, la mia intromissione le dava 2 brutti sentimenti invece di 1 solo. Che amabile creatura ero! Non mi stupisco che abbia un ricordo così affettuoso dei miei discorsi. «Mr. Knightley, Mr. Knightley», mi chiamava sempre. E a forza d'abitudine non ha un suono poi così solenne. Eppure solenne è. E desidero che lei mi chiami in qualche altro modo, ma non so quale. Ricordo di averla chiamata George una volta, circa 10 anni fa, in uno dei miei attacchi di amabilità. Lo feci credendo di offenderla, ma poiché non obiettò nulla, non lo ripetei più. «E non può chiamarmi George ora?» «Impossibile! Non posso chiamarla altrimenti che Mr. Knightley. Non prometto neanche di eguagliare l'eleganza e forbitezza con cui Mrs. Elton la chiama Mr. K. Ma prometto», aggiunse subito, ridendo e arrossendo, «prometto di chiamarla una volta col suo nome. Non dico quando, ma forse può immaginare dove». Elsa Galbato ha letto Emma di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Marzetti, con Annalisa Gaudenzi, il terzo anello @rai.it.